Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, sono ancora io, Camilla Lattanzi. Già ci conosciamo probabilmente perché qualcuno di voi si ricorderà il ciclo di trasmissioni Questione di Stili, che è durato ben 7 anni e che vi teneva compagnia proprio la domenica a quest'ora. Quello era un viaggio nel consumo critico e nelle buone pratiche del vivere quotidiano, ideato e condotto da Sabrina Sganga, del quale ero diventata ospite fissa. Ecco, la trasmissione Restiamo Animali, quella che vi stiamo proponendo e che parte oggi, è diciamo una sua piccola eredità e anche una sua piccola evoluzione. Ci chiediamo se è possibile vivere in modo cruelty free, cioè senza infliggere sofferenza e morte agli altri animali. Noi pensiamo che questo sia possibile e il titolo è Restiamo Animali proprio perché, pensando a Vittorio Arrigoni e alle sue corrispondenze da Gaza, che si concludevano sempre con l'esortazione Restiamo Umani, noi siamo persuasi che il modo più nobile e più alto di essere umani è quello di riconoscere la nostra radice comune a tutti gli altri animali e quindi di combattere come possiamo per riconoscere a loro i diritti. Questa trasmissione, che parte oggi e andrà avanti per 4 mesi per un totale di 16 puntate, non mi vedrà sola. Sono infatti all'interno di una ricca redazione con personaggi che hanno ragionato e che stanno ragionando su questi argomenti anche da molto molto tempo prima di me. Sicuramente da molto tempo prima di me ci ha pensato Elisa Moretti, nostra compagna di viaggio, appena diventata mamma e quindi assente per questa trasmissione, ma che sarà con noi dalla prossima volta. La saluto e saluto il suo bambino Valerio. Elisa è una blogger ed è stata una voce di Radio Flash di Torino. Beatrice Montini, giornalista e attivista contro il razzismo, è qui accanto a me e le chiedo di presentare la puntata di oggi di Restiamo Animali. Inizieremo con una rubrica che si chiama Visti da vicino, non mangio mai qualcuno che conosco, in cui incontreremo due maiali che vivono liberi e felici a Lippoasi. Per la parte letteraria dedicata ai libri, Perle all'umani, letterature per la liberazione, leggeremo un brano del maiale che cantava la luna. Parleremo anche di attualità nella rubrica Animal House e incontreremo Sara del coordinamento Fermare Green Hill, che ci racconterà della battaglia per chiudere questa azienda dove si allevano cani destinati alla vivisezione. Per la parte di cucina, il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà, la ricetta della torta al cioccolato e al pistacchio. Infine, l'incontro settimanale filosofico con il professor Luigi Lombardi Vallauri in Sostiene Vallauri. Grazie Beatrice, e in questa trasmissione la musica non sarà mai casuale. A pensare delle playlist molto molto speciale, con noi Giuseppe Coco, che forse molti di voi ricorderanno perché anche lui è stato un ospite delle trasmissioni Questioni di Stile con Sabrina Sganga, dove parlava soprattutto di cucina e medicina tibetana. Ma Giuseppe, oltre a parlarci di cucina, in questa trasmissione curerà anche delle specialissime playlist. Giuseppe, parlaci di quella di oggi. Il nostro percorso musicale spazia da artisti vegan a canzoni che parlano di animali. Si inizia dal newyorkese Moby e finiremo nella Londra degli indimenticabili Smiths. Ascolteremo canzoni che parlano di maialine allo specchio, di animali da laboratorio, cover degli ABBA e metamorfosi di kafkiana memoria. Vi state chiedendo se tutto questo ha un senso? Lo scoprirete ascoltando la trasmissione e visitando il blog all'interno del quinto elemento. Grazie Giuseppe, e non soltanto la musica non sarà casuale in questa trasmissione. Ogni puntata dedicheremo la trasmissione a un pensatore, a un uomo del passato, a un personaggio storico o del presente che è stato molto molto significativo per l'ottenimento e il riconoscimento dei diritti degli animali. In particolare, essendo questa la prima puntata, facciamo un grande salto nel passato e dedichiamo questa trasmissione niente po' di meno che a Pitagora. Chiedo a Lorenzo Guadagnucci, giornalista e attivista per i diritti umani, di spiegarci perché. Perché Pitagora fu un grande filosofo, matematico, riformatore e può essere considerato il capostipite dell'alimentazione non violenta. Ovidio ce ne dà un ritratto nelle Metamorfosi. Scriveva così Ovidio: per primo si scagliò contro l'abitudine di cibarsi di animali. Per primo lasciò uscire dalla sua dotta bocca parole come le seguenti: smettetela, uomini, di profanare i vostri corpi con cibi empi. Ci sono le messi, ci sono alberi stracarichi di frutti, ci sono turgidi grappoli d'uva sulle viti, ci sono erbe dolci e tenere. Che enorme delitto è ingurgitare viscere altrui nelle proprie, far ingrassare il proprio corpo ingordo a spese di altri corpi e vivere, noi animali, della morte di altri animali. Grazie Lorenzo, ed essendo domenica a quest'ora non posso altro che sperare che anche voi nelle vostre case vi stiate preparando per dei pranzi pitagorici. Visti da vicino, non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo venuti a visitare l'Ippoasi, un magnifico rifugio per animali che si trova a Marina di Pisa. Si chiama Fattoria della Pace e ci potete trovare tantissimi diversi animali liberi. Galli, galline, anatre, conigli, mucche, asini, cavalli, pony, maiali, capre, pecore e cani. Possono vivere una dimensione davvero naturale ed esprimere tutta la loro capacità emotiva e di relazione. L'Ippoasi ha anche una campagna di adozione, ha bisogno infatti dell'aiuto di tutti per poter mantenere liberi questi animali. Per questo potete visitare il sito www.ippoasi.org e scegliere gli animali che desiderate adottare. Con una cifra modesta gli garantirete una vita felice e libera. Per la rubrica Visti da vicino, oggi incontriamo Gorgo e Peppa, i due maiali ospiti della Fattoria della Pace. Egon, allora, presentaci Gorgo e Peppa. Gorgo e Peppa per molti non hanno neanche più bisogno di presentazioni, più che sono della specie, una specie di star dell'Ippoasi, perché a parte sono apparsi in alcuni video, addirittura Gorgo è il protagonista di un cortometraggio, quindi è proprio sono veramente delle star. E poi effettivamente spesso le persone che vengono in visita, perché appunto l'Ippoasi è un posto dove si può visitare, rimangono spesso molto tempo insieme ai maiali, perché proprio vengono un po' calamitati verso questo animale, forse perché è l'animale che meno ti aspetti e l'animale che forse meno si conosce, perché è difficile trovare un maiale, appunto i maiali sono tutti nascosti dentro gli allevamenti. E anche nell'allevamento tradizionale in fondo il maiale era comunque rinchiuso dentro il trogolo, e ci sono comunque un sacco di, appunto, di dicerie sui maiali che rendono animali poco avvicinabili, e quindi di solito le persone che vengono qua, nessuno ha mai visto un maiale, nessuno l'ha mai toccato, e quindi si trovano di fronte a questi animali assolutamente tranquilli, che praticamente disdicono tutte, uno per uno, tutte le credenze che noi abbiamo sui maiali. Innanzitutto perché sono animali pulitissimi. È vero, confermo, non puzzano assolutamente, hanno un odore sicuramente migliore di quello della maggior parte dei cani. Sì, perché praticamente hanno una pelle similissima alla nostra, con questo pelo sopra, appunto queste setole, quindi non hanno un vero e proprio, appunto, pelliccia che magari può appunto portare appunto a un odore, anzi ovviamente hanno un odore veramente molto simile a quello nostro. Poi appunto nel posto dove loro dormono in una capanna all'interno dei posi, loro lì appunto, c'è un posto dove dormono, non fanno assolutamente i loro bisogni, quello è il loro letto, e quindi come nessuna persona si sognerebbe di fare i propri bisogni nel letto, e così loro assolutamente, quindi non abbiamo mai bisogno di pulire il posto dove dormono, e così come dove mangiano loro non fanno i loro bisogni, quindi hanno un posto dove fare le cose e il posto dove mangiare e dormire. E quindi questa è una particolarità che noi riscontriamo in pochissimi animali, quindi noi abbiamo tantissimi tipi di animali, e sinceramente noi facciamo una gran fatica tutti i giorni a pulire il loro sterco. C'è qualche episodio che ricordi? Ecco, la differenza fra il venire dietro di Pulce e venire dietro di Gorgo. Pulce mi viene dietro in tutto il posto e scodinzola e è sempre contenta perché ci sono comunque io. Gorgo mi veniva dietro sempre e comunque, perché comunque mi vedeva un po' come la sua, insomma, il suo punto di riferimento, però c'erano dei posti, e io non ho neanche capito il perché, che a lui non piacevano, per cui lui mi veniva dietro sì, ma cominciava a brontolare, come a dire sì, qual è però che andiamo via però per piacere, e quindi faceva questi grugniti per farmi capire che lui qua non ci voleva stare bene, erano sempre i soliti punti, veramente qualcosa che non gli ispirava fiducia, quindi proprio la differenza, cioè loro dicono la loro, ecco. Hanno i loro gusti e dicono la loro, hanno la loro personalità molto molto spiccata, infatti hanno una vita sociale veramente molto molto ricca. Questo rumore, questa è Peppa, che tra l'altro, essendo diciamo la dominante tra le due, è quella anche che appunto si esibisce di più di tutti in grugniti e rumori vari, perché è molto molto comunicativa. Lei deve sempre comunicare quello che vuole o che non vuole, perché è molto assertiva. Gorgo è molto più tranquillo, Gorgo è la dolcezza fatta persona, non ha mai dato, nonostante appunto la sua mole, è uno degli animali più tranquilli che non ha mai dato un problema. Ho fatto una breve verifica, i denti di Gorgo sono a posto, eh? Sì, qui appunto come si può vedere appunto il dei sì, i maschi hanno queste zanne che gli crescono qui all'infuori molto di più delle femmine, che le femmine non hanno. Chiaramente Gorgo è un animale totalmente integro, nel senso che non, appunto non gli sono stati amputate le zanne, come invece di solito avviene negli allevamenti, proprio perché possono essere armi e quindi li vengono amputate in modo che non si facciano male tra di loro e non facciano male alle persone che lavorano. E a me piace anche molto proprio vederlo crescere, vedere queste zanne che crescono, vedere come si trasforma. E una volta mi fece impressione una veterinaria che venne qua, una studente veterinaria, vide Gorgo e li vide in bocca e disse: oh, finalmente posso vedere come sono fatti i denti dei maiali. Ai ai ai ai ai ai ai. Grazie. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Il libro di cui parliamo oggi è Il maiale che cantava alla luna, la vita emotiva degli animali da fattoria, di Jeffrey Musayef Masson, edizione Il Saggiatore, Tascabili. In questo testo l'autore indaga le emozioni, le relazioni e la sensibilità degli animali che solitamente vengono allevati per venire uccisi e mangiati. Il libro racconta come la segregazione rappresenti per loro un'esperienza dolorosa e traumatica che li porta quasi alla follia. Il racconto ci fa capire che un animale, proprio come un essere umano, può essere felice solo quando vive in un contesto che gli permette di rispettare la propria etologia, di vivere in gruppo, di tessere relazioni, soddisfare la propria curiosità, il gioco e la voglia di vivere, proprio come tutti noi. Cercheremo di incuriosirvi con la lettura di un brano tratto da questo libro. Un vecchio adagio inglese dice: il cane ti guarda dal basso in alto, il gatto dall'alto in basso, ma il maiale da pari a pari. C'è del vero nella saggezza popolare di questo detto, che è stato attribuito a vari personaggi, compreso Winston Churchill, ma che nessuno sa per certo da chi sia stato coniato. Il fatto che i maiali, se ne hanno la possibilità, si dimostrino estremamente amichevoli con gli esseri umani ha un che di miracoloso, considerando come li abbiamo quasi sempre trattati. Forse anche loro sono consapevoli che gli assomigliamo e ci considerano cugini più che membri di una specie diversa. Numerose persone che trascorrono moltissimo tempo con i maiali sottolineano quanto possono essere gentili quando li si tratta bene. Come i cani sembrano provare gratitudine e rendersi conto di essere amati. Evidentemente sono capaci di contraccambiare. I maiali sanno riconoscere il proprio nome e, sempre come i cani, scodinzolano quando sono felici. Sono inoltre in grado di salvare i loro proprietari. Lo dimostra il racconto che segue. Un pomeriggio, Joan Altman era in cucina e si è sentita male. Lulu si è precipitata fuori dallo sportello di passaggio per un cane di piccola taglia, ferendosi i fianchi, essendo un maiale che pesa più di 90 kg. Dopo essere corsa in strada, Lulu ha attirato l'attenzione, rimanendo sdraiata in mezzo alla carreggiata fino a quando un'auto non si è fermata. Poi ha condotto l'automobilista fino alla casa della proprietaria, dove Joan aveva avuto un attacco di cuore. La donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale e la ASPCA, American Society for the Prevention of Cruelty on Animals, ha assegnato a Lulu una medaglia d'oro per il suo eroismo. Joan sa che il sesto senso di Lulu le ha salvato la vita. Per qualche ragione, questi animali hanno esteso l'interesse e la curiosità per i propri simili a noi, che siamo il loro maggior predatore. Chissà se, in tanta generosità emotiva, che pare sia una caratteristica di tutti i suini, tengono conto della nostra debolezza morale, perdonandoci con un gesto compassionevole che faremmo bene a imitare. Sono creature straordinarie che meritano il nostro rispetto e le scuse più profonde. È ora di guardare ai maiali non come ad animali da mettere in tavola, ma come a una famiglia lontana a cui siamo legati da un'affinità profonda e speciale. Stanno solo aspettando il segnale che siamo finalmente pronti a vivere con loro, considerandoli esseri pari a noi, per svelarci, con esuberanza suina, l'intera gamma della loro complessa personalità emotiva. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Oggi parliamo della campagna per la chiusura di Green Hill. Si tratta di un'azienda che si trova a Montichiari, in Lombardia, dove vengono allevati 2500 cani beagle destinati alla vivisezione. Un'importante campagna che negli ultimi mesi è cresciuta ed ha mobilitato migliaia di cittadini. Per questo l'obiettivo della chiusura di Green Hill sembra molto più vicino. Abbiamo intervistato Sara, del coordinamento Fermare Green Hill, nato nel 2010. Sara, com'è possibile che in Italia esista uno stabilimento come Green Hill se c'è un decreto che vieta la sperimentazione su cani, gatti e scimmie? Ma a principio la vieta, poi solo se lo sperimentatore ritiene che per quel tipo di esperimento sia necessario proprio il cane, il gatto, la scimmia, può utilizzarli. Quindi il risultato è che tutti i laboratori italiani sono pieni di gatti, no, ma di cani e scimmie, oltre che tutti gli altri roditori animali da laboratorio. I clienti sono i laboratori pubblici e privati, quindi le università, gli ospedali, i centri di ricerca misti, perché ci sono quelli anche a metà pubblici e privati, ci sono clienti in Italia, università italiane, ci sono ditte come Anerviano, l'ex farmacia che anche è uno dei principali torturatori delle scimmie in Italia, che già ci fu uno scandalo, ne arrivarono a centinaia, cosa anche di questi giorni. Un altro grosso stabilimento fornitore, che è Arlan di Corezzana, sta importando a centinaia di scimmie, come avrete sentito tutti dai telegiornali. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le mobilitazioni e anche la partecipazione è cresciuta, ma a che punto siamo? Allora, noi speriamo di essere a un buon punto, cioè siamo sicuramente ad un momento cruciale, perché si è creata tantissima attenzione nei confronti di questa campagna e della presenza di questi cani all'interno dell'allevamento. Diciamo che ovviamente non è successo tutto dalla sera alla mattina, c'è stato un grossissimo lavoro dal 2010 ad oggi, con proprio, come hai detto tu, un crescendo. Ci sono state iniziative anche spettacolari, come il presidio sul tetto, 5 attivisti sono riusciti a salire, ad occupare un capanno dell'allevamento, quindi scavalcando le reti, arrampicandosi fino sui tetti. Questa è l'azione che ha fatto proprio più calore e ci ha tirato addosso tutta la stampa, perché da quel momento tutti si sono interessati alla questione, da Striscia la Notizia a politici che più che meno hanno anche tentato di cavalcare un attimino l'onda dell'emozione. Però diciamo che ci sono state anche prima altre iniziative di piazza molto importanti. Noi abbiamo fatto 2 cortei nazionali a Montichiari con migliaia di persone e un corteo nazionale a Roma, dove per la prima volta, fatto mai accaduto nel movimento antivivisezionista animalista, c'erano più di 10.000 persone. Anche a livello legislativo mi sembra che si stiano facendo dei passi avanti. Sì, proprio perché ovviamente succede sempre così: prima bisogna cambiare la sensibilità. Quando la sensibilità, la cultura, la civiltà di un popolo dice a gran voce che il sentimento, il sentiero è cambiato, che non vuole più certe cose, poi ci sono le leggi che vanno a regolamentare il cambiamento. Ci sono in discussione sia un provvedimento nazionale, che è il recepimento della direttiva europea in materia di vivisezione, direttiva che è stata assolutamente deludente dal nostro punto di vista, perché dopo così tanti anni ci saremmo aspettati qualcosa di meglio. Invece fermo restando che per noi l'unica legge valida è quella che va ad abolire la vivisezione, però comunque uno dice: beh, almeno un po' meglio. No, non ha portato importanti cambiamenti. L'emendamento che è stato presentato a livello nazionale, che andrà a recepire la direttiva, invece porta quantomeno, così sembra, alla chiusura di Green Hill. Noi abbiamo comunque un grosso dubbio si faccia attenzione a vietare non solo l'allevamento ma anche la vendita di animali ai laboratori, perché nel momento in cui si vieta solo l'allevamento un centro come Green Hill può diventare centro di smistamento e non dove non vengono allevati ma vengono importati dagli altri stabilimenti produttori. Se domani Green Hill chiudesse, cosa accadrebbe ai 2500 cani? Allora, questa è una bellissima domanda. Noi ovviamente vorremmo che fossero liberati come accaduto per la chiusura, a seguito della chiusura di Molini, che è l'altro grande allevamento di cani beagle da laboratorio presente in Italia. Là era una situazione molto diversa, era una condizione più familiare, diciamo, e nel momento della chiusura c'erano presenti 300 rotti cani che abbiamo ritirato noi. Qui la situazione è molto diversa. Nel momento in cui la ditta chiude, essendo di una multinazionale, può legittimamente pensare di trasferire i cani altrove, in un altro stabilimento o fornitore. È ovvio che auspichiamo che ciò non accada e speriamo che tutti gli sforzi vadano nella direzione, nel momento in cui viene ritirata l'autorizzazione alla vendita, vadano tutti gli sforzi nella direzione di bloccare i cani e di non farli andare altrove. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Chiquitita, tell me what's wrong. Iniziamo il nostro percorso gastronomico partendo da una ricetta siciliana, una ricetta a cui sono legato particolarmente visto che è il luogo da cui provengo. Torta pistacchio e cioccolato. Ingredienti: 300 g di farina zero, 250 g di latte di soia, 150 g di olio di semi di mais, 80 g di zucchero integrale, 60 g di pistacchi, 60 g di cioccolata fondente, una bustina di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di cannella e un pizzico di vaniglia. Ovviamente zucchero, cioccolata e cannella, tutto del commercio equo e solidale. Certamente. Ci mancherebbe altro. Possibilmente anche bio. Ovvio. Ecco, preparazione. Imburriamo. Come sarebbe a dire? Imburriamo con burro di soia o margarina. Ah, meno male. Uno stampo per torta o una teglia per dolci. Spolverizziamo con un po' di farina in modo che il dolce non si attacchi al recipiente. Accendiamo il forno a 180 gradi, meglio in modalità ventilato. Che raffinatezza. Sì. In una terrina mettiamo la farina, lo zucchero, il latte, l'olio, la cannella e la vaniglia. Con una forchetta o con una spatola, con un utensile adatto, una frusta. Un utensile adatto. Manette, quello che volete, come siete abituati. Mescolate e amalgamate gli ingredienti fino a rendere il composto omogeneo e semicremoso. Semicremoso però, attenzione. Sì, se no vi si squacchierà troppo. Aggiungere i pistacchi e la cioccolata precedentemente tritati. Poi mettiamo anche la polvere lievitante e amalgamiamo il tutto. Dopodiché distribuiamo l'impasto nello stampo e lo livelliamo per poi metterlo nel forno caldo per circa 15-20 minuti. Quando me l'hai cucinata però non l'hai livellato tantissimo. No, l'esperimento venuto. C'erano delle escrescenze, diciamo. Era un po' montuoso, però, era un po' montuoso, però il sapore era notevole. Notevole. Controllare nel frattempo che cuoce che il dolce naturalmente aumenti di volume e acquisti naturalmente un colorito gradevole. Quando la superficie ha raggiunto un bel colore bruno chiaro o è omogeneo, incastonato da questi diademi verdi di pistacchio, benissimo, siamo a un buon punto di cottura. Prima di spegnere, naturalmente, controllare che il dolce sia cotto, anche internamente, usando uno stuzzicadenti o uno spaghetto, il vecchio metodo della nonna, praticamente. Spegnete e poi servite tiepido o a temperatura ambiente. Se no gli ospiti si bruciano la lingua e poi vi fanno causa. Bravi. Buon appetito! Sostiene Vallauri. Professor Vallauri, lei oggi è un animalista e ha fatto anche scelte personali, alimentari e non solo, coerenti con il suo animalismo. Come ci è arrivato? Ai vecchi tempi ero, diciamo pure, nocivo e innocente come un leone, perché la mia formazione culturale mi rendeva un leone culturale, cioè io mangiavo la carne con la stessa inscienza con cui la mangiano i leoni, mi piaceva moltissimo il filetto al sangue, anzi bleu, che vuol dire praticamente crudo, arrivavo a mangiare le bistecche alla tartara e tutto questo genere di cose. Nella mia vita sono state abbastanza importanti delle studentesse che mi hanno chiesto la tesi sugli animali. Io sono caduto così dalle nuvole, ma cosa vuol dire una tesi sugli animali? Però rapidissimo, perché sono intelligente, ho capito che il problema era grosso e già in un vecchio libro degli anni 80, Il meritevole di tutela, avevo preso posizioni animaliste. Non però vegetariane ancora, ero un animalista non vegetariano, in base a uno strano ragionamento mi mettevo nella pelle di un Amleto animale che si chiede to be or not to be, that is the question, e rispondeva è meglio to be, e allora io dicevo, siccome l'uomo uccide ogni anno qualcosa come 60 miliardi di animali per la sua utilità, se smettiamo di mangiarli, di utilizzarli, non li faremo nascere e quindi non saranno, e quindi lo stesso Amleto animale avrebbe dovuto dire purché mi trattiate bene preferisco essere messo a morte perché così vivrò, cioè io mangiando carne davo la vita agli animali. Poi un altro gruppo di donne mi ha dato una spallata e sono diventato vegetariano perché il modo in cui vengono trattati gli animali è comunque indegno, e poi perché ha preso sempre più spazio nella mia vita quello che ho chiamato l'animalismo umanista, cioè ho cominciato a unire alla pietà per l'animale la pietà per il carnefice, alla pietà per la vittima, alla pietà per il carnefice, per il boia, il quale fa una vita spaventosa. Devo dire che oggi questo argomento per me è fortissimo, cioè quando penso a qualcuno che uccide, che spara un colpo di proiettile cattivo nella testa di una mucca che si affloscia o sventra un maiale o anche un grosso pesce, io dico povero uomo, ecco. E allora il vegetarianismo ha anche il senso di risparmiare agli uomini questa vita spaventosa nei mattatoi e nei laboratori di vivisezione. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. E siamo al termine della nostra prima trasmissione, del primo appuntamento del ciclo Restiamo Animali. Abbiamo davanti a noi ancora 15 date, 15 domeniche, durante le quali cercheremo di capire se è davvero possibile pensare e vivere in modo cruelty free. Ma la giornata non è ancora finita e potrete ancora fare un'esperienza interessante, per esempio, Beatrice? A Livorno è in corso per tutto oggi, fino a stasera a mezzanotte, la Due Giorni Ecoanimalista. Siamo tutti animali, all'ex caserma del Fante occupata, via Adriana 16, Livorno. Alle 14.30 presentazione del rifugio per ex animali dal reddito Ippoasi di Marina di Pisa. Alle 15.30 il workshop Discriminazione, specismo, rassismo, sessismo a cura di Damiano Gori e Alba Di Domenico. E nel salutarvi invitiamo a scriverci, a partecipare al nostro blog, lo trovate nello spazio Quinto Elemento nel sito di Controradio, www.controradio.it. Da non perdere le bellissime foto di Camilla con Gorgo, un filmato su Gorgo e il cortometraggio Rifugiati. Qual è la mail per mandarci suggerimenti, consigli, critiche costruttive possibilmente, ma anche le vostre esperienze, segnalazioni e gli appuntamenti importanti? Facilissima da ricordare, è restiamoanimali@gmail.com. A domenica prossima! Buon appetito! Muuuu! Shut up.